Proseguendo con la halakha della lettura del Sefer, abbiamo studiato che quando una persona riceve un invito di essere chiamati al Sefer, venire a leggere e fare la berakha sul Sefer, prima che fa la berakha gli si indica dove nel Sefer il punto della lettura, in modo tale che egli possa sapere su cosa si applica la berakha che lui sta facendo. Giusto? Ora, se una persona viene a Sefer e gli indicano un punto e lui dice la berakha e poi ci si rende conto che il punto è un altro, come ci si dovrebbe comportare? Vediamo cosa dice l'Alaha. Vediamo il testo. Im herula ole, se viene indicato al ole, colui che prende la aliyah, sale a Sefer. Hamakom shei kravivarech, il luogo, il punto del Sefer dove si leggerà e quindi su quale lui farà la berakha. Uberach, e ha fatto la berakha. Yacharkach nizkeru, e dopo si sono resi conto shen ze hamakom, che non è questo il punto. Ela shebe makom acher tzrichim likrot, che bisogna leggere in un altro punto invece. Ok? Allora, ben shekvar itchilu likrot. Questa halakha si applicherà sia che abbiano già iniziato a leggere dal punto sbagliato, sia che ben sheadain lo itchilu, sia che non hanno ancora iniziato. Il parametro è il seguente. Im hamakom shetzrichin likrot haya gam ken galui lefanav. Significa, se il punto in cui invece bisognerebbe iniziare, il punto giusto, è anche aperto davanti a lui, cioè non bisogna rotolare, girare il Sefer per arrivarci, ma è già aperto lì sulla pagina, è solo che abbiamo sbagliato il punto, ma il punto giusto è davanti a noi, ok? Anche se fosse su un'altra colonna, cioè su una colonna verso destra o su una colonna della lettura verso sinistra, ma è sempre visibile. Se è visibile, afilo hu be'amud acher, uleachar hamakom sherulo, ed è, si trova dopo il punto che gli è stato indicato, in quella situazione è ino tzarich levarech shenit, non deve rifare una seconda berakha, mishum, perché non deve fare una seconda berakha, e dato haya ala makom sheberach ve'al kol ma shenigla lefanav. L'intenzione della persona di norma è riguardo il punto che gli è stato indicato, ma anche riguardo in generale tutto ciò che è visibile. Ok? Se però, aval, im lo hayam akom galui lefanav, se il punto da dove bisognerebbe iniziare non era rivelato, cioè non era visibile, e la shetzarich liglol, bisogna fare la gelila, cioè rotolare, girare il sefer, ta sefer, o afilu haya makom niglel fanav e la sheu kodem la makom sherulo, oppure anche se fosse visibile, ma è prima del punto che gli è stato indicato, cioè gli viene indicato sotto, in realtà bisogna iniziare da sopra, ok? Allora, in quella situazione, dice l'alaha, צריך לברך שנית, bisogna ripetere la berakha asher bacharbanu mikol ha'amim venatalanu et torato. Ma non deve ripetere barechu. Aval barechu lo yomar shenit. Yomar techila baruch shem kvod malchuto leolam ve'ed. Prima dica baruch shem kvod malchuto leolam ve'ed. Perché? Perché quando si dice una berakha per errore, dove non andava detta una berakha, bisogna poi dire baruch shem kvod malchuto leolam ve'ed. E quindi questo riguarda la prima berakha che in realtà era detta in errore perché era sul punto sbagliato. Lì dice Baruch Shem e ripete la nuova berakha sapendo adesso qual è il punto corretto da cui si inizierà a leggere. Alla berakha rishona sheberach levatala. Se non hanno ancora iniziato a leggere, non solo, non ha neanche concluso la berakha quando si sono accorti del punto. Cioè lui ha detto Baruch Atah Hashem e il lettore ha detto aspetta, no, non è qui, è qui. Ha detto Baruch Atah Hashem, non più di questo. Conclude la medeni chukecha. Cosa significa? Allora, Qual è il problema di dire una berachà che non è nel posto giusto, o non è nel momento giusto, o non è la berachà giusta? Il problema qual è? Il problema è sempre lo stesso. Il problema che si chiama una berachà levatala, una berachà in vano. Che problema c'è in una berachà in vano? È che si invoca il nome di Hashem, e non si può invocare il nome di Hashem in vano, perché nella berachà c'è il nome di Hashem, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, e questo è vietato. E allora per questo bisogna evitare il più possibile di dire una berachà, anche quando magari si fa un errore. Uno dice Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Natan Lanu, per esempio, uno va a Sefer e prima, invece di dire la berachà dell'inizio della lettura, dice la berachà della fine della lettura. Si accorge e ripete di nuovo Baruch Atah Hashem Elokeinu. No, non ripetere, solo ripeti la fine. Hai detto Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Natan Lanu. No, Asher Bachar Banu. Senza dire di nuovo Baruch Atah Hashem, perché allora è una ripetizione in vano. Se ti riprendi subito. Ora, quando esiste, si trova il nome di Hashem all'interno di un versetto, di un pasuk, che sia della Torah o degli altri libri del Tanakh, come i profeti o gli agiografi, come i Teilim, che fa parte dei Ketuvim, della geografi, se noi diciamo un intero versetto all'interno del quale si trova il nome di Hashem, questo non è considerato invocare il nome di Dio in vano. C'è Baruch, Baruch che lo fa. Come? È Baruch che è importante. No, no. No, non è una formula berakà, neanche. Io non voglio dire il nome di Hashem in vano, ok? Cosa significa in vano? Se dico una berakà fuori luogo, ok? Se io invece sto studiando la Torah, c'è scritto sulla Torah, sto studiando la parasha della settimana a casa, e c'è scritto sulla Torah, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, un versetto. Posso dire il nome di Hashem o devo dire Hashem senza dire Ado? Ah, ho capito che dici. Se io dico un versetto intero, senza interrompere, in mezzo al versetto, posso dire il nome di Hashem, perché sto dicendo una cosa intera che è scritta, la sto facendo per studio, ma è permesso, per studio o per preghiera, è permesso. Questo non è considerato dire il nome di Dio in vano, fa parte dello studio, se non interrompo il versetto. Non dico, vai da Berashem, pronto, chi c'è? El Moshe Lemor. No, questo non si può. Questo non si può fare, però vai davvero a Shem, il Moshe Lemor, l'intero versetto, si può fare. Ok? Allora, questo fa sì che esiste una formula che ci può salvare a volte quando facciamo un errore nella Berachah. Perché? Perché c'è un versetto nel Teilim, nel capitolo 119, che è scritto Baruch Atah Hashem Lamedeni Chukecha. Benedetto, sì, tu, Signore, che mi insegni le tue leggi. La Medeni, insegnami le tue leggi, Chukecha. Questa è una berachà, ma è anche un intero versetto, che potrebbe essere recitato come studio o a mo' di preghiera. Allora, se una persona dice, Baruch Atah Hashem, perché vuole dire Sheakol Niabidvaro, o vuole dire Asher Bachar Banu Mikolamim Al Sefer, ma poi si rende conto che c'è confusione e non sa su cosa sta dicendo la berachà, oppure dice non dovrei fare una berachà adesso, mi sono sbagliato, perché il pane non è ancora arrivato a tavola, cosa dico la berachà? Devo aspettare altri 10 minuti, non è valida la berachà. Allora, se io ho detto Baruch Atah Hashem, e in quel punto che ho detto Baruch Atah Hashem mi accorgo che sta per accadere un errore, mi salvo concludendo Lamedeni Chukecha. Ah, cosa okay, ho fatto? Okay. Ho detto un versetto del Teilim. Per questo tu dicevi, mi ricordo sempre, quando uno si appresta deve far mettere locale a quello che deve dire, per cosa lo dice, proprio per non incorrere in questi rischi. Esattamente. Prima di dire una berachà, Baruch Atah Hashem, aspetta, che berachà sto facendo? Cosa sto facendo? Perché lo sto facendo? È tutto valido? Ok, se mi accorgo dopo che ho detto già la parola Hashem, Baruch Atah Hashem, ho detto il nome di Dio, Ado, grazie Piero, Baruch Atah Hashem, allora in quel punto, se c'è da un errore, non posso andare avanti, non lascio così per sospesa la berachà, dico Lamedeni Chukecha, e tutto insieme e diventa un versetto del Teilim che ho detto. È una via di uscita. È una via di uscita. Invece se non faccio in tempo, faccio come ho detto prima. Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Ve'ed, bravo. Se invece non ho fatto in tempo, ho già concluso la berachà, ho già detto Elokeinu Melech Haolam, che poi non è più quel versetto dei Teilim, allora devo dire Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Ve'ed. Lamedeni. Kukecha. Scusa, come hai fatto un esempio? Anche se sono andato avanti, quindi non è più il versetto, ma lo devo. Mi interrompo dove mi accorgo dell'errore, non è che lo finisca sbagliato. E dico Lamedeni Kukecha. No, dici Baruch Shem. Lamedeni Kukecha è solo se Baruch Ata Hashem, Lamedeni Kukecha, è quello il versetto. Quindi se mi accorgo a metà, se tu dici Baruch Ata Hashem Elokein Melech Olam Lamedeinu Chukecha, non c'è un versetto così. No, infatti, giusto. Allora se sei andato avanti dopo Hashem, dici Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Ve'ed. Poi dice Ve'im Amakom Sheutzarich Likrot, se il punto in cui bisogna leggere il Sefer è prima del punto che gli era stato indicato, ma è poco prima, cioè è proprio una riga o due righe prima. Aval usamuch beofen sheicholim likrot lo gam shlosha psukim makom shebrachu le'alan, in un modo che è possibile recuperare, cioè se entro i tre versetti, se il punto 3 è lì il punto che bisogna leggere, ok? Gli è stato indicato il punto 4. Allora, se io inizio a leggere dal punto 3, oppure anche uno o due versetti ulteriori prima, e rimango nella parashah del contesto del giorno di che sto leggendo, allora inizio prima dal punto che gli ho indicato per sbaglio e continuo e proseguo per la parashah regolare. Ok, non può. Capito? Cioè, Kolub e parashat Ayom, perché comunque è la parashah del contesto di quel giorno, quindi Yasuken, è meglio fare questo che rifare la berachah. È meglio aggiungere qualche versetto prima della lettura dove gli è stato indicato per sbaglio il punto, invece di levarech shenit, invece di fare una seconda beracha. Allora, scusa, eh. Sì? Comincia a leggere, se ne accorge, mo che fa? Torna prima. No. Non comincia a leggere, fa la beracha, sì, relativamente al punto che gli è stato indicato. E dopo? Che in realtà dovrebbe essere un po' dopo il punto. Invece gli è stato indicato un po' prima. Ah, prima gli è stato indicato. Sì. Allora dunque dice... continua allora. A questo punto continua e va avanti. Quello che dice. Ok. Non pensavo al punto. Perché prima abbiamo visto se il punto era reale, era prima. Viene fuori che era prima del punto indicato. È questo che sta dicendo. No, e prima ha detto se era prima del punto indicato. Adesso sta dicendo se è dopo. No, questo è un altro caso. Ah, allora scusa. Infatti io ho capito come... Prima abbiamo detto che se il punto è dopo ed è visibile, non deve rifare la berachà. Esatto. Poi abbiamo detto se il punto è prima, deve rifare la berachà. Adesso abbiamo detto però c'è un'eccezione. Se è prima, ma è poco prima, entro tre versetti, e siamo sempre nel contesto della parashah del giorno, allora puoi iniziare da lì dove per sbaglio ha indicato e proseguire per la parte corretta. Tutto ciò per non far ridire la berachà. Per non ridire la berachà, bravissimo. Non per la Torah. Ora, in generale, la Halakha dice, ora al prossimo comma, Seif Yutet, paragrafo 19, Tzarich, kol ha'oleh likro l'chol ha'pachot shlosha psukim. Il minimo indispensabile per essere considerata una chiamata a Sefer serve che ci siano tre psukim, tre versetti. Uba sheni, uba chamishi. Quando è sheni, cioè lunedì, chamishi, cioè come oggi, giovedì, Chen be Shabbat ba mincha e Shabbat pomeriggio a mincha, tzrichim likro le kulam le chol apachot asara psukim. Non è sufficiente 9 versetti, cioè 3, 3, 3. Devono essere almeno 10 versetti. Ed è bene che la chiamata che ne ha 4 sia l'ultima, cioè una chiamata di 3, una chiamata di 3 e una terza chiamata di 4. Yesh likro la shlishi arba psukim. 4 versetti di lettura nella terza chiamata. Almeno. Come minimo, sì, non deve essere per forza 10, può essere di più, ma deve essere almeno. La squadra di calcio, 4-3-3. Ubedi avad, e a cose fatte, a posteriori, in lo karule kulam e la tishap sukim, se è venuto fuori che hanno letto con tutti e tre chiamate insieme solamente 9 versetti, a posteriori yatsu, a posteriori escono l'obbligo. Ma a priori devono essere 10 nei casi in cui ci sono 3 chiamate. Ube Purim, mentre invece a Purim c'è un'eccezione. Sheen Korim Likulan Ela Tisha Psukim. A Purim a priori si leggono non più di 9 versetti, perché Mishum de Salekinyana, perché alla fine della nona, del nono versetto conclude il contesto di cui si parla, di Amalek, e quindi ci si accontenta, tra virgolette, delle nove psukim, perché per non entrare in un'altra parasha. Però normalmente bisogna averne 10. Uno alla volta. Te la faccio dopo alla fine. La sequenza era 4. La sequenza è 3, 3, 4. Però come minimo, possono essere anche 5, 5, 5. L'importante è come minimo 3, 3, 4. Io devo sapere, sì, se c'era una motivazione sulla numerazione. 3, 10. Cioè, se, perché 9? Beh, normalmente la motivazione è perché come minimo di 3 psukim, che è un minimo di parasha, minimo di brano, 3 psukim. E il fatto che ci siano 10 e non 9, perché a volte abbiamo un versetto che è introduttivo, come Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, allora lo vogliamo considerare come una introduzione, e che ci siano poi 9 veri e propri versetti. Okay. Anche la costruzione. Anche quello non è vero e proprio. No. Dico, è come costruita una frase, la frase, cioè soggetto, verbo, è quello. Dunque, se tu devi dire un'azione, devi dare tutti e tre, non puoi dire uno senza. Vero. Manca un pezzo. Sì, però non è sempre così. A volte abbiamo un verso in cui ci sono già tutte e tre. Però abbiamo bisogno di 3 versetti come base. Faccio, poi se mai poi rispondi dopo. Che problema c'è? Quali le 3 chiamate che noi facciamo, no? Durante la settimana? Se poi andiamo a vedere la lettura di sabato, la prima chiamata in realtà è più lunga di quello che noi leggiamo, no? Spesso è uguale. Ma sono 3 versi di una chiamata, 3 della seconda e 4 della terza? No, per dire? La prima chiamata. Che criterio scelgono? Come normalmente la prima chiamata delle 7 chiamate di Shabbat è divisa in 3. Ok. Cioè a giovedì e lunedì si legge la prima chiamata e la si suddivide in 3. Ah, è intera? Quella che si legge... Ok. Molto spesso sì. E le altre? Stesso criterio? Che si fa le altre? La seconda e la terza è uguale? No. No, non ce l'ho. La prima chiamata di Shabbat è divisa in 3 e queste 3 si leggono nel lunedì e giovedì. Ah, è sempre la prima chiamata che non leggiamo allora. Ah, ok. Leggiamo l'inizio della parasha. Ok, ok. È la prima chiamata. Okay. Sì. Sì? Poi i 3 e i 9 versetti, c'è differenza. Che significa? Bisogna fare 3 versetti, l'altra volta 9. No, 3 per chiamata. No, 3 per ogni chiamata. Ma c'è differenza. 3 chiamate. In 2 casi. Piero, 3 versetti in ogni chiamata. Quante chiamate sono? Lunedì, oggi quante chiamate abbiamo fatto? 3 chiamate. 3 versetti per 3 chiamate sono 9 versetti. Questo volevo capire. Più 1, 10, abbiamo detto. Allora, prossimo punto. Hakoreba Torah, quando si legge il Sefer, lo yesayem, non bisogna fermarsi, bemakom shelo yishaer misham ad parasha. Non bisogna fermarsi in un punto in cui, da questo punto in cui ci fermiamo, fino alla fine del brano, perché esistono dei brani nella Torah, che siano ptucha o stuma, cioè aperte o chiuse. Ptucha significa aperto, cioè un punto e si va a capo della riga. Stumà vuol dire che c'è uno spazio bianco tra un brano e l'altro, ma non si va a capo della riga. Comunque questi sono chiamati parashiot. La parashà, il vero senso di parashà, è brano in questo senso, non parashà della settimana, che come già abbiamo visto si dice sidra, come più corretto. Parashà sono questi brani, di cui ci sono tanti nel Sefer. Se io leggo il Sefer e devo concludere la chiamata, non... Se sono entro 3 versetti della fine di una parasha, cioè uno di questi brani, concludo tutta la parasha. Ok? Uh-huh. In altre parole, per concludere il brano, la chiamata, devo lasciare almeno 3 versetti perché si finisca il brano. Se sono entro i 3, lo concludo tutto. Mm. Chiaro? Cioè, se faccio la lettura di una chiamata uh-huh. e sono... sbagliata, cioè che non dovevi comunque leggere, giusto? Non ti puoi fermare. Se non mi posso fermare se va avanti, se entro tre versetti devi completare il brano, giusto? Questo è detto. Sì, cioè normalmente le chiamate si bisogna concludere in modo tale che non rimangano in sospeso meno di 3 versetti per la fine del brano. Quello crea un po' forse la disparità tra un'edizione e l'altra dei libri, magari si perde per strada quando li stampano. Certe volte c'è differenza fra l'indicazione di fine chiamata, non so, della tefilà e quella sul libro tuo o viceversa. Certe volte è lì forse che si crea... Può darsi, ma in casi rari. Purtroppo qui ci sono alcuni errori in questo libro, che sono proprio errori. Non sono... E a volte c'è differenza di rito, sì. Sì? No, andiamo avanti. No, spiega. Quando è stata, diciamo, scritta la Torah così come... cioè, ripartita la Torah così come noi la leggiamo adesso? Diviso le parasciotte, i versi... Da sempre? Già da Mosè praticamente si leggeva in questo modo. Che significa si leggeva? Che il fatto che ci sono questi brani, esatto, Parashot, Stumah e Ptuchah, e il capoverso qual è, eccetera, questo è stato trasmesso da sempre. Forse tu certo. Ogni parashah come la dividiamo oggi. No, parashah della settimana è un'altra cosa. Questa è più tarda, la suddivisione. No, io parlavo della suddivisione. Quello è da sempre, quello è da sempre. Scusa, solo a proposito della, se non è lungo, il motivo per cui certe volte è aperto o chiuso, insomma, c'è sì, un significato per cui ci sono in quel punto... il senso più semplice, il senso più semplice è che se è una chiusura totale, diciamo, allora si va a capo. Se invece l'argomento non è una chiusura totale, allora non si va a capo. Normalmente il senso semplice è questo. E lo spazio invece un po' di più? Fra non andare a capo? Questo dico, non andare a capo vuol dire che c'è uno spazio. Ci sono due modalità. Sì, ma i versetti sono anche collegati stretti. Quindi allora, c'è la continuità senza interruzione, poca interruzione e a capo. Sono tre le differenze. No, due. Le differenze sono due. Perché? Tra un versetto e l'altro non c'è uno spazio in più. Esatto. È come tra una parola e l'altra. Esatto. Quindi... E questo è, dicevo, per me era la prima. No, non c'è. C'è sempre uguale tra un versetto. Tra un versetto e l'altro non c'è differenza di tra una parola e l'altra. Quindi non c'è distinzione. Non significa brano. Per distinzione di brano, cioè di parashah, di brano, cioè ci sono due indicazioni. Se versetti che trattino un argomento, allora... se si chiude un argomento c'è lo spazio, cioè... Allora sto dicendo, se si chiude un argomento ci sono due modalità di iniziare un altro argomento. Una modalità è che si lascia un po' di spazio, lo spazio di 9 lettere, sì, e si riprende un altro argomento, oppure si lascia ancora di più, nel senso che si va proprio a capo della riga, quello che ho detto prima, che normalmente la chiusura, l'andare a capo è una chiusura più forte, è come un inizio più... Netta distinzione fra è più netta, diciamo così. Una cosa rapidissima. Sì? Tu prima hai detto il termine sidra. Sidra, sì. Sidra significa quello che noi chiamiamo la parashah della settimana, il nome più corretto è sidra. Perché la parola parashah in realtà si riferisce ai brani più piccoli che esistono nel Sefer, non a tutta la parashah della settimana. Da quando l'hai detto ho cambiato i nomi. No, ma si usa dire anche parashah, non è sbagliato. Però il senso più originale è questo. Allora dicevamo che quando si legge la Torah non ci si deve fermare in un punto dal quale non rimangono almeno tre versetti fino alla fine del brano, sia esso Petuchah o Setumah, che sia un brano completo o non completo, a capo della riga o no. Se però... Se invece qualcuno l'avesse fatto e ha accorto, mancano solo due versetti alla fine del brano, e lui ha già concluso la chiamata, e la persona che ha preso la chiamata ha già detto la berakha conclusiva, allora Hakorea Harav, colui che prende la chiamata subito successiva immediatamente, non deve cominciare dal versetto precedente per avere tre versetti nel brano, ok? Invece inizia direttamente dove il primo si è fermato e prosegue per almeno tre versetti nel brano successivo. invece di recuperare tre versetti in questo brano che ne sono rimasti solo due, legge queste due e va per almeno tre in quella successiva, in modo tale di avere almeno tre in un'unica parasha. O parasha she'emba e la shnei psukim. Se invece c'è un brano che non ha più di due versetti, potrebbe essere un brano nella Torah che ha solo due versetti, allora si può interrompere lì, perché quello comunque è tutto il brano. Mutar le'afsik sham. È permesso interrompere lì la chiamata, ovviamente avendo letto già prima, perché deve avere almeno tre per la chiamata. Quindi, im yesh piska be'emza pasuk, kegon bitchilat parshat Pinchas, mutar le'sayem afilo ba'pasuk ha'samuchla. Allora, a volte c'è un'interruzione come per indicare un brano, cioè ci sono casi rari in cui viene indicata l'interruzione di un brano in mezzo a un versetto. Cioè il versetto non conclude, ma come se il brano concludesse e riniziasse all'interno di uno stesso versetto. In quel caso è permesso fermarsi anche a quello immediatamente precedente, perché non arrivi alla fine del brano. La fine del brano è in mezzo al verso. Non puoi finire alla fine del brano. Sì. Ok? Mi viene in mente i 10 comandamenti come sono scritti. Beh, l'antefermerà. No, no, qua sulla Torah. Ogni comandamento è una parasha. E c'è uno spazio e poi... È un brano. Ogni uno della serie Tadibrot è un brano. È così scritto nel Sefer. L'idea è un momento talmente solenne che non ti sbagli. Una parasha, ognuna è una parasha per sé. No, però dicevo, quello intendevo, che quando dice quelli negativi, no? Sì. Dice lo, spazio, e poi quello che... E poi dice... Il divieto, no? Lo fa così. Vabbè, poi lasciamo stare. No, lo spazio lì non è uno spazio di un brano, ma tra un comandamento e l'altro c'è lo spazio di un brano. Sì. Non l'ho spiegato. Io so quello che stai dicendo. Tu stai dicendo l'interruzione che c'è tra lo e la cosa. Esatto. Non è in realtà non è una vera interruzione, ma è legato a quello che dicevamo ieri, la cantilena. Sì. La nota che c'è sotto la parola lo divide dalla parola successiva lo tirzach, lo tinaf, eccetera. Cosa significa? Ci sono dei commentatori che spiegano che lo è una cosa e tirzach è un'altra cosa. Ok? Sì. Questo è un approfondimento che si basa sul modo in cui si canta la nota del cantare del Sefer, ma non indica un'interruzione vera e propria. Sì, okay. Strutturale praticamente. Sì, è più strutturale del canto. Ma il lo è forte perché invece tra uno e l'altro c'è il brano. Il cantante di Guese è lo. Lo si ripete in continuazione nei comandamenti. Poi quello che è dopo è secondario, secondo me. Ok, allora anche per iniziare i versetti, le chiamate, bisogna vedere di non iniziare più di tre versetti dopo che è iniziata la parasha, cioè il brano. Che significa? Non si deve cominciare a leggere a meno di tre versetti dopo l'inizio di un brano, per questo motivo che si precede nella lettura, che chi precede nella lettura non deve fermarsi a meno di tre versetti dopo l'inizio del brano. Oltre i tre versetti dall'inizio del brano. Vuol dire se stiamo entro i primi tre versetti del brano, inizia dall'inizio del brano, non dal secondo, se siamo entro i tre. Se siamo già passati i tre è come se fosse una chiamata intera, per dire, e allora lì. Cioè, comunque non è, è comunque sbagliato lasciare una parte della lettura scoperta, quindi. Esatto, esatto. L'intento è non... E non lasciare un brano con meno di tre versetti scoperti prima o dopo. Per questo le chiamate, che noi guardiamo sul libro e vediamo quali sono le chiamate, prendono in considerazione questa cosa qui, queste regole qua. Quindi anche meglio ripetere la stessa cosa che invece non ripetere per niente una frase. Per esempio, domani è Rosh Chodesh, si ripete un versetto per riprendere l'inizio dell'argomento. E anche per rientrare nel numero di versetti necessari per avere quattro chiamate. La chiamata dell'Aftarà, ecco. Aftarà è un'altra cosa. No, quella che ripetiamo. Sono tre versi, quelle là. Almeno tre versi, è quello, certo, che dico. Bravo. Perfetto. Maftir. Maftir, quello dicevo. No, anche il Maftir si riprendono almeno tre psukim, almeno tre versetti. Dicevo, no, non ha, sì, sì. Senso. Fabio? Sì. Bisogna stare dentro tre versi o prima o dopo. O prima o dopo, bravissimo. Allora, l'ultima indicazione di oggi è la seguente. Al numero 22, Chafbet. יכוון להתחיל תמיד בדבר טוב לישראל ולסיים בדבר טוב לישראל. È bene fare in modo di cominciare sempre con un argomento propizio per Israel e terminare la chiamata con un argomento favorevole per Israel. V'chen lo yisayem b'mishe asa ma'asera. E anche non bisogna cercare di evitare di concludere una chiamata dove si parla di qualcuno che ha commesso una cosa negativa, un'azione cattiva. Normalmente si cerca di concludere sempre con una cosa buona. Come quando il film non sempre è possibile. Deve essere happy end. Chazak.